L'éveil, il suit la croix, et on va discipliner colon. Au mardi, au l'éveil, il suit la croix, et on va Obandise mcha othixo thathu qobo lwami uhondi sigelele ondi semcha othixo othaba thathama uqobo lwami uhondi Sigelele Owa meni Ha ha ha Ha ha ha Amen Owa meni Yebo wa meni Oyebo wa meni Ha ha Amen. Amen. Amen. Oh, amen. Thank you, Jesus. Listen to the voice. Amen. Amen. Yebo, amen. Tikuniga. Yebo. Ukhobo wami.